You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi. E che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi, solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto. Indovina chi viene a cena, questo film degli anni 60 ci introduce subito al nostro tema. Può capitare di avere un pregiudizio negativo per il cibo cinese, poi mangiare una splendida anatra alla pechinese, oppure di avere un pregiudizio per lo zenzero e scoprire di non poterne fare a meno. Insomma, a tavola, come nella società e nella vita, i gusti cambiano e parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare quest'Italia che cambia, i nuovi italiani. Oggi in realtà parliamo di italiani acquisiti, perché indovinate chi viene a cena a Radio 24. Prima di darle il benvenuto e di metterci il grembiule per cucinare assieme, vi vorrei far sentire questi due audio. Alle 6 del mattino l'italiana non si scherza, ecco dunque le finaliste con la Idem che ho il miglior tempo in batteria in questa specialità, che c'è per la medaglia d'oro, ma in queste condizioni certamente l'azzurra non è certamente favorita. Partenza tra le onde, sta lottando con la Coban in acqua 6 e la Brunei in acqua 5. Josefa che ha una punta di vantaggio, le spalle sono abbastanza ancora in linea, la spinta è buona, sembra accusare ancora la Brunei e la Idem con una punta di vantaggio, la sua punta è inesorabile, passa a Fattore e passa a vincere per la storia d'Italia di questo sport. Italia ancora una volta per la canoa, gara stupenda, terribile, effettuata in condizioni atmosferiche impossibili, guardate il grido, finalmente questa 36enne alla sua quinta Olimpiade. Mi hanno dato della ladra, mi hanno dato della puttana, hanno scritto Sefi la furbetta dell'Imu, ci sono state alcune irregolarità e ritardi. Me ne scuso pubblicamente, me ne assumo tutte le responsabilità come qualunque cittadino, ma sono una persona onesta e non permetterò a nessuno di dubitarne. Josefa Idem, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, nata in Germania, la conosciamo tutti per tutti gli ori che ha regalato, le medaglie che ha regalato all'Italia, perché è italiana da molti anni ormai, una grande atleta, una donna anche di politica, di impegno, è una senatrice del Partito Democratico, è stata ministro. Cosa prova innanzitutto sentendo questi due audio accostati? Ma devo dire che io sono innamorata di questo paese. E sono italiana per scelta, non mi sono mai pentita della mia scelta e do il mio contributo, ho fatto cose che hanno fatto gioire tanti italiani assieme a me, perché ovviamente è stata una grande gioia vincere quelle Olimpiadi. Si emoziona in quando risenta quella cronaca di Galeazzi. Mamma mia, sì, l'unica cosa che li posso imputare è che ogni volta ha rivelato la mia età e non è molto elegante con le donne. Ha ragione, ha ragione. Sì, evento pubblico ho subito premesso la mia età, dico tanto è un fatto risaputo e poi c'è stato questo incidente con il ministero, io tra tra poche settimane avrò tutte le carte a posto e poi potrò spiegare pubblicamente di cosa si è trattato in quel momento. Oggi non voglio entrare perché voglio a bocce ferme poi comunicare quali sono state le dinamiche di quel momento. Comunque adesso io lavoro sempre al Senato, porto avanti le politiche sui miei temi, che sono innanzitutto lo sport, perché lo sport è la passione della mia vita, oltre ai figli e alla famiglia ovviamente, e in quel settore ho le maggiori competenze, e poi altri temi che mi interessano, mi scaldano, come le pari opportunità per le donne, come le pari opportunità per le persone che non le hanno, le politiche per i giovani, quelle che in realtà sono state anche le mie deleghe da ministra. Cosa ci cucina innanzitutto oggi pomeriggio? Ci mettiamo ai fornelli e quindi andiamo subito al suo piatto. Ma io stavo per proporre due piatti e poi quando ho sentito parlare di zenzero propongo anche il terzo piatto, che in realtà è un'acquisizione internazionale che poi non farebbe neanche sospettare che si trattasse di un piatto che mi ha insegnato un'amica, collega canoista canadese. Allora, il primo piatto si parte dall'infanzia, no? Mamma sì. Cucina la domenica, c'è l'arrosto con i crauti rossi e con gli gnocchi di patate, che questo è stato il piatto della domenica che mi ricordo con più forza. E poi una volta venuta in Italia si mangiavano i cappelletti alla romagnola, dove poi questa pasta non viene fatta con la carne, ma si fa con col parmigiano, col battuto di parmigiano e con l'uovo, nel brodo di carne. Questo è il piatto che ha sempre cucinato mia suocera, che ancora oggi cuciniamo. E poi l'ultimo piatto è quello internazionale, salmone infornato con una salsa fatta proprio a base di aglio e zenzero, sciroppo d'acero e del peperoncino tritato, ed è una cosa che divide un po' che le consiglia. Anime. Ah, che divide le anime, sì. Sì, a chi piace uccide anche per fare il toccio finale, e a chi non piace proprio è una cosa improponibile. Tedesca, dicevamo, ma in Italia da tanti anni, in italiana per matrimonio, ci sono molti luoghi comuni che attraversano i nostri due paesi, no? Ha mai subito, perché di questo noi parliamo oltre che di ricette, dei pregiudizi, delle diffidenze perché tedesca? Sì, ma i luoghi comuni, diciamo così, bisogna affrontarli un attimo con la giusta distanza. Detto ciò, comunque tante volte hanno un fondo di vero, no? Quando si parla dell'organizzazione tedesca, dell'efficienza burocratica, delle programmazioni, del rispetto del dovere, voglio dire, questo sono comunque tratti che contraddistinguono la Germania. E quando si parla piuttosto della fantasia all'italiana, dell'arte di vivere, della cultura, e questi sono tratti all'italiana. Sì, è chiaro che sono prevenuti nei miei confronti. Io devo sempre essere puntuale e lo sono, ma quella volta in cui capita di arrivare con 5 minuti di ritardo, ma scusa, te che sei tedesca, no? Però alla stessa maniera, quando sono in Germania, sono l'italiana, no? E quindi mi concedono qualche leggero ritardo, perché tanto ormai per osmosi io ho acquisito questi comportamenti. Per come la vedo io, la cosa migliore è mettere insieme questi complementi, in realtà, no? Che poi messi insieme diventano un bel cerchio perfetto che potrebbe fare a gara con il resto del mondo. Ho scovato su internet, perché dico la verità non lo conoscevo, una canzone che ha spopolato quest'estate in Germania. Sunshine time! Vito tu clan con shine your mind. Con dansen. Yeah, yeah, okay, all. Se sei speciale, io voglio restare con te. Ballare, tu sei importante. Là, dai, vieni e brilla. Sei la mia E insomma, è una canzone di un italo tedesco, Vito la vita, che non conosco. Devo dire, il video di questo aitante cantante italo tedesco con Coppola, bretelle a bordo di una Lamborghini, è pieno di stereotipi italici. Lei lo conosceva? Ma io il video non lo conosco, l'abbiamo ballata al 50° compleanno di mia sorella e ci ho ballato malgrado fosse stata una settimana di distanza le mie dimissioni, perché penso che la vita bisogna sempre godersela. Quindi è vero che in Germania andava moltissimo questa canzone qualche mese fa. Ha spopolato, io la canzone la conosco perché, come dicevo, c'era lì anche al compleanno di mia sorella, quindi no, ma ci sono alcune, c'è Eros Ramazzotti che va molto in Germania, tanto per questo Vito la vita, in questo video ripropone un'immagine dell'Italia degli anni 50, quello che io pensavo è, caspita, se i tedeschi si fanno un'idea di noi guardando il video è un bel guaio, però adesso sentiamo l'idea che avevamo noi dei tedeschi in questo audio tratto da un cartone animato, da un fumetto degli anni 70. Adesso ve lo facciamo sentire, Surtruppen. Dalla casetta in trincea, po, po, po. Anche se viene di avere, respirando in apnea, per non tradire nostra idea. In der Funkenfunk. Insomma, questa era l'immagine che almeno negli anni 70 era la più popolare e temo resista ancora. Domani si vota in Germania. Cosa accadrà? Tutta l'Europa in realtà guarda questo grande paese molto importante. Lei, se fosse ancora cittadina tedesca, che cosa avrebbe votato? Ma io ho sempre votato per i socialdemocratici e poi, con il sistema elettorale che c'è lì, a quei tempi il voto ai Verdi, che poi dava, diciamo, una nota diversa a un governo di sinistra, avrebbe potuto dare il secondo voto, per alcuni voti l'ho dato ai Verdi, ma diciamo concettualmente ho sempre votato per i socialdemocratici e non a caso adesso io sto col PD al Senato. Cosa si dice in Germania di questo voto? Queste larghe intese alla tedesca funzioneranno, forse più di quelle italiane? Ma diciamo così, che anche in Germania, quando c'è stato la grossa coalizione, come si chiama in Germania, il governo a larghe intese, in realtà chi ci stava dentro ha sempre cercato, pur con diciamo più decenza e pur che con più discrezione e eleganza, ogni partito ha cercato di fare le proprie distinzioni, di cogliere quando era possibile in fallo il proprio partner, perché dopo questo poi si tornava alle elezioni e ognuno dopo correva per conto proprio. E adesso non è ancora detto se ci sarà una grossa coalizione di nuovo in Germania, in quanto comunque ci sono anche i partiti più piccoli che, se va tutto bene, possono avere i numeri. Leggevo qualche giorno fa un articolo del Corriere della Sera che riportava dei dati interessanti. Il titolo è già esaustivo, perché i tedeschi lavorano meno e producono invece di più. In Germania le ore lavorate per addetto sono in media 1.400 all'anno, mentre in Grecia sono 2.000 all'anno, in Italia 1.700, quindi noi lavoriamo di più, però ovviamente il prodotto interno lordo tedesco è più alto di quello anche per ora lavorata, italiano e greco. Come mai lei, da semplice cittadina ma anche da politico, senatrice, che idea si è fatta conoscendo bene questi due paesi? Ma vede, quello che veramente contraddistingue la Germania è un'organizzazione più efficace, questa poi fa risparmiare tempo. C'è una democrazia che comunque è solida e si può progettare a lungo termine, sono anche meccanismi di concertazione consolidati che riescono a fare leggi che tengono conto della realtà che ci si trova di fronte, va bene, perché sono rapporti consolidati nel tempo proprio tra la politica e chi viene rappresentato dalla politica, chi viene investito dalle leggi che si fanno, e questo poi si ripercuote su tutti i sistemi, e per quanto riguarda la burocrazia e per quanto riguarda tutto il mondo delle imprese, paese, quello dei sindacati, quello del sistema scolastico e così via. E questo fa risparmiare tempo. Pensiamo solo alla burocrazia italiana che è articolata, che è complicatissima, di cui sono caduta vittima, che comporta passaggi laboriosi, faticosi, incomprensibili, che poi dopo si traducono anche in pratiche sul lavoro, perché non si sa mai quando si è in regola. E questi sono frutto anche di politiche che non hanno la loro costanza nel tempo. E credo che questo sia uno degli aspetti molto, molto importanti. Quando uno fa male un lavoro deve tornarci su, e questo costa tempo. Quindi bisogna imparare a lavorare magari meno, ma a lavorare meglio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Sono Mario Monti. Cosa sei? Tu sei la ritenuta da conto mai versata. Quelli ero bon, ma quelli no. Non posso, dai. Tu vuoi tutto, sei un panzer. Mario, dai. Politicamente intendevo. Adesso ormai puoi governare. Vediamoci a Bruxelles se vuoi. Ho l'accento, sei come l'aliquota al 22%. Cara Merkel. Cara Merkel. Questo era Maurizio Crozza in questa parodia di Angela Merkel. Stiamo parlando con l'atleta e politica italiana Josefa Idem di molte cose, della Germania, dei suoi ori olimpici, ma anche dell'incidente, torniamo su questo, che l'ha costretta 3 mesi fa a dimettersi da ministro per un presunto mancato pagamento dell'ICI. Una questione da poche migliaia di euro. È inutile negare che nel paese c'è abbastanza stupore per la discussione che va avanti ormai da settimane, se non mesi, sul fatto che debba o meno decadere da senatore Silvio Berlusconi, condannato in terzo grado di giudizio per frode fiscale da 360 milioni di euro. Qual è il suo punto di vista? Ma per quanto riguarda me, io alla luce di quello che è successo mi sono dimessa, anche perché credo, anzi sono convinta, che in un ruolo esposto come quello dell'essere ministra occorre avere la credibilità innanzitutto a posto, e quando si finisce in una burrasca come quella che si è verificata si perde anche di credibilità, di conseguenza io ho pensato fosse giusto uscire, chiarire anche per me stessa tutte queste questioni e poi a bocce ferme fare le valutazioni del caso. Io credo che questo sia una cosa che si debba anche al cittadino. Per quanto riguarda l'altro caso, ci sono anche delle leggi, va bene? E quando c'è la legge che dice di fronte alle condanne è automatica fatto che decade il mandato del senatore, del parlamentare. Ecco, direi che su questo non sono possibili interpretazioni. Ecco. All'interno del PD chi è che vede come leader? Adesso si parla molto di Renzi. Credo che noi come partito dobbiamo trovare in fretta un leader che rappresenta la maggioranza degli iscritti e di quelli che poi alla fine dovranno dare il voto alle politiche del PD, che sono quelle che secondo me servono a questo paese. Ma Renzi è un personaggio che piace e deve adesso trovare il modo di convincere tutto il partito, e poi è anche giusto che c'è la concorrenza delle idee. Io lo vedo in modo molto, molto disincantato, perché questo serve per avere la concorrenza delle idee, e poi su questo anche la concorrenza del carisma, della forza di convincere, che sono parte della politica tanto quanto un buon programma. E quindi su questo adesso si snocciolerà la sfida, e chi vincerà questa sfida poi dopo dovrà essere supportato da tutto il partito. Io non concepisco correnti e appartenenza all'interno di uno stesso partito. Torniamo alla sua vita di atleta. Lei ha iniziato a praticare la canoa a 11 anni. È stata una passione che le è arrivata perché magari in famiglia si praticava o semplicemente perché era incuriosita, era molto giovane? Ma sono stati tempi in cui sono stata quell'epoca della vita di una persona in cui si provano tanti sport, no? E avevo provato la ginnastica artistica e promettevo di diventare un po' alta per questo sport. E poi facevo nuoto ed ero un'anatra di piombo, allora mi sono spostata sulla superficie dell'acqua con un attrezzo e in realtà la canoa è venuta da me attraverso una promozione alla scuola di mia sorella. Io ero sorella dipendente, la mia sorella era veramente il punto fermo della mia vita, e allora sono andata con lei a provare questo sport. Siamo sempre caduti in acqua all'inizio, poi mi sono spostata sul singolo, ho continuato a cadere in acqua, e poi, e questo credo che sia anche un bel messaggio, che non sempre i talenti precoci sono quelli che durano più a lungo e sono quelli che fanno le massime prestazioni, perché nonostante fossi sempre caduta in acqua, poi sono andata a vincere le Olimpiadi e titoli del mondo, ho partecipato a 8 Olimpiadi. 8 Olimpiadi, e ha rappresentato la Germania nelle prime due, poi nell'altra l'Italia. Quando ha deciso di diventare italiana e come l'ha presa la sua famiglia? Per la mia famiglia non ci sono stati problemi, perché lì si guardano anche molto gli aspetti personali. Per mia mamma non fa differenza se sono per il passaporto italiano o tedesca. Per mia madre c'entra la persona che è nata in un paese e ha scelto di vivere in un altro paese, che ha aumentato il numero degli affetti e così anche per il resto della famiglia. E si sente italiana. Ma anche per la cerchia degli amici. Ma guardi, io ho scelto di essere italiana, poi quello che è questa cosa che lei mi sta chiedendo, me l'hanno chiesto in tantissimo: a lei si sente più tedesco o più italiana? Io dico sempre: la vera patria uno ce l'ha dentro se stesso, e quando noi siamo in pace con noi stessi, quando dentro di noi abbiamo un posto dove poter tornare, siamo sempre a casa e siamo sempre una persona che al paese dove vive e al paese che ama può dare un ottimo contributo. Lei si è ritirata dall'agonismo ormai, si allena ancora così per piacere, pratica ancora dello sport? Io mi alleno ancora, non vado mai in canoa perché perdo molto tempo per recarmi al lago dove poi ho appoggiato la mia canoa e dove è l'acqua che mi serve per praticare questo sport. Non ho nostalgia del fatto di andare in canoa, perché avendo a quei tempi sempre praticato la sinfonia, andare lì a suonare solo un singolo strumento vuol dire che non saprò più andare avanti, perché non ho più un muscolo a mettere da parte. Non mi manca la canoa, pratico quasi tutti i giorni un po' di sport, ho la bicicletta, la cyclette, la corsa, e devo dire che faccio anche fatica ad andare a correre, ma lo faccio perché mi fa bene, non vorrei neanche ingrassare, perché questo tante volte è il destino che tocca a chi in passato è stato atleta per molti anni. Senta, ma lei cucina a casa? Raramente, però devo dire che l'ultima domenica ho fatto un arrosto alla birra e in un involucro di senape, è venuto molto bene. Ma fantastico, anche questa poteva essere una ricetta squisita. E adesso quindi diamo le ricette di Josefa Idem. Arrosto di maiale alla birra. Ingredienti per 4 persone: 1 kg e 800 g di spalla di maiale con la cotica, sale e pepe, olio d'oliva, 150 ml di birra scura, un bicchiere d'acqua. Per la salsa, 3 cipolle rosse, 3 carote, un piccolo sedano rapa, un rametto di rosmarino, 200 ml di birra scura, un cucchiaio di senape. Incidere a scacchiera la cotica del maiale usando un coltello molto affilato, salare e pepare abbondantemente l'arrosto, scaldare dell'olio in un tegame capiente e rosolare la carne a fuoco vivo solo sul lato della cotica. Sfumare con la birra e l'acqua. Mettere l'arrosto nel forno preriscaldato a 170 gradi e cuocerlo per circa un'ora finché la cotica non risulterà croccante. Nel frattempo, mondare la verdura, tagliarla a pezzetti e condirla con la senape. Aggiungerla all'arrosto e bagnare la cotica con la birra. Far cuocere per almeno un'altra ora. Quando l'arrosto risulterà cotto al punto giusto, passare il sugo di cottura in un colino per ottenere la salsa da servire con l'arrosto. Crauti rossi. Ingredienti: un cavolo rosso, una cipolla, due mele, aceto, 50 g di zucchero di canna, vino bianco, 2 cucchiai di farina, acqua, sale, olio extravergine di oliva, cumino. Innanzitutto andiamo ad affettare in parti molto piccole la cipolla. Prepariamoci ora a tagliare il cavolo in tante striscioline sottili, così da ottenere la base per i crauti. Tagliamo anche la mela a fettine. Prepariamo ora un soffritto di cipolla. Quando la cipolla è diventata bionda, uniamo i crauti e le fettine di mela. Completiamo con un po' di cumino e del sale. La puntata di oggi termina qui. Io ringrazio la nostra graditissima ospite, la senatrice Josefa Idem, che è stata con noi. Grazie, buon appetito. E buon appetito a tutti voi, buon pomeriggio e buon weekend. Grazie anche perché mi ha fatto conoscere Vito La Vita, ormai lo adoriamo tutti quanti. In regia ringraziamo Valeria Bernardi, mi trovate anche su Twitter @Valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, in cucina come nella vita, i gusti cambiano.